c'era quel film comico dove questo tipo quando faceva sesso gli spariva la voce, non so, non mi ricordo con chi era. Deve essere troppo il sesso, il troppo sesso fa male alla voce. Però quello che non è chiaro, se stavi infornando tu, perché ti friggeva la canna? Ma stavi infornando o venivi infornato? Com'è la storia? Tu vuoi sapere il trucco? Spinoso. Vabbè Luca, sentendo poco, non ti ho sentito né oggi né ieri, mi pare. Non c'ero, ne ho solo uno adesso con l'acchino, giù non ce l'ho più, capito? Non ce l'ho più. Tipo da venerdì alla domenica non mi sentirete più adesso. No, tanto non fa cosa giù. È un casino. Beh, è un casino, capito? Ma sono qua. E si accendo tutto. Dai, un attimino che mi metto le mutande, sono stata mutata. Vedi, tu stai dicendo a me del sesso. Manda una foto subito. Un selfie nudo fatti, mandamelo. Aspetta, faccio vedere come gira la cosa, aspetta. Stavo dopo la metto, non vedi, esita. Se lui lo manda davvero, mira, la foto la manda davvero, mira. È peggio per te che gliel'ha chiesta. È inutile. Che te l'ho mandata. Una foto arrivata, io sapevi. Ma non sali davvero col mangaglio fuori, no? La colpa è tua, gliel'ha chiesto tu. Adesso Maria, cara. Ui, ui, ui, che bei ricordi, che bei ricordi. Ci lasciamo perdere. Dai, che mangaglio cucci di Lambetta, sta vedendo. Mamma mia, che cosa morbida. Uia. Io è muro, è duro, Boh, boh. Ma Andrea, a chi posso dare? Così vi lascio in compagnia sua e vado a fare la missione di pace, dai. Ma cosa missione di pace? Sta attento che ti manca la voce poi mi. Marco, non entro, non ti sento, tu ripari subito, cosa entra a fa? Allora, io su e basta solo l'antenna, devo staccare nel capo l'antenna. Poi, no, così uno metto in mazza, bino, mi faccio un blocco, lo metto lì nel gruppo CB, se mi danno quanto chiedo, vado tutto. Perché ogni volta dici che vuoi vendere tutto, non vendere niente, cosa vendi? Tanto la roba poi te la pagano 2 lire e poi non è più, poi ci ripensi, poi ricompri tutto, eccetera. Quello di 150 euro non lo do, ma neanche no, se rimane in chiwi, chi su sì, se me lo pago non me lo dico io, perché il tempo si fa 150 euro, tondi, è abbastanza nuovo, compreso di staffa, microfono originale e cavetto d'alimentazione, ho cambiato anche lo smitter. Anche la staffa ai pomelli? E allora? A proposito, mi servono i pomelli per la staffa del baracchino piccolo che mi devo mettere in macchina. Non è se avessi i pomelli in più, no? Che mi servono i bulloncini, quelli che ho io sono troppo piccoli. Ah, se non erro ne ha 4 questo qua, perché se ne metto 2 si muove, invece il tarifo ne ha, vediamo un po' 2 mi sa. Il tarifo ne ha 2, sì. Niente, però in più non ne ho. No, Natali, volentieri, ma non ne ho. Io sono questi qua che sono dalle radio, capito? Marco, ricordati la scatola. Che magari stavo pensando, sai che cosa? Se tu me la dai la scatola, ma io me lo conservo dentro la scatola, questo qua del 2009 mi uso il telefono. Sì, lui, allora, io l'ho cercata, ho trovato, vabbè, quella blu ce l'avevo, quella dell'omologato, dove c'è scritto display luci blu, che c'è il numero di serie, ce l'ho. Ho difficoltà a trovare quella del Superstar 3009 col display rosso, che era un po' più neutra, sperando che mia zia non me l'abbia buttata, perché sono anzichirvi, allora sperando che, vabbè, mettendo a posto non me l'abbiano buttata, perché qua alla fine non sono padrone nemmeno in casa mia, capito? Mi buttano roba, così come è sparito, sparita roba, tipo il rosmetro a coratore, anche altre cose che non mi trovo l'appello. Comunque se la trovo te la do, ma ti serve anche la parte interna. La parte interna ti serve? C'è l'alloggiamento del baracchino? Per forza, sono a conservare. Ho fatto un po' da parte, basta lei! Basta! E tu che ne hai fuori di capo? Non mi piace la cucina sistemata con le copertine, a dare di conto a tutti. Basta, guarda nanna! Oh, sì, Marco, vabbè. Lo devo conservare, poi se non c'è pazienza, ma se c'è è meglio, capito? No, perché c'avevo un bustone dove ci sono quasi tutte le scatole, quasi, manca l'appello, quella più una o due di roba piccola però. Aspetta, messaggi, chi è? Riprendi Atali. Ma io se non chi è, una persona ti regalo 3.900. Cristo, ma cos'è il mostro di Frankenstein? Cioè, non puoi fare una cosa a tradimento così, aggiungami di fare un like. Marco! Dimmi Natà. Ho buscato il programma di quell'RT 95, originale. Succede. Oh, ma a gratis? Yes. Sì, bene o male si trovano, cioè, qui non lo so, c'è originale senza virus, è una cosa, ti funziona su Windows 10? Sì, l'ho aperto, non l'ho provato con la radio, ma già apre tutto. Comunque Luca, allora quella centrale di foto è agghiacciante, quella centrale, Cristo santo. Aspetta, la terza praticamente, E quella centrale, stesso soggetto, foto centrale. Foto centrale. Ma cosa avete fatto? Gli sticker avete fatto? Hanno fatto. Oia. Adesso vi passo la mia foto di come mi alzo la mattina. Fate anche di quello. Così aggiungiamo l'orrore all'orrore. Andrea, ci sei ancora? Sto ascoltando con interesse i vostri scambi. Ciao Marco, ciao Andrea. Marco, hai visto quel tipo, quel genero che ha ucciso il suocero, eh? Ma ti rendi conto, ha ucciso lo cazzo con l'accetta. Cose da pazzi. È una tragedia quella, lui dice che è stato aggredito. Comunque, certe suocere, non dico l'accetta, ma un paio di sprangate se le meriterebbero, dipende dalla suocera. Ma addirittura una cosa così sanguinosa, minchia. Brutto, cose brutte. Ma i bambini erano presenti magari, hanno visto, vabbè che erano piccoli, non potranno mai ricordare, si spera. Ma ti pare che c'è fare un gesto del genere? Azzuffati. Lui deve ringraziare che magari se l'avrebbe trovato che era, come si dice, in servizio, io dico l'avrebbe sparato, fai di brutto pure. Ehi, Gobbo. Poi è un passo da noi, va bene, succedono tutte le parti d'Italia di tragedie di quel tipo. Va bene, io devo staccare, ci sentiamo alle prossime, dai. Sempre Roberto, salutatelo, io devo necessariamente staccare. Ciao Natalino, Luca, poi anche Natalino, gli avevo detto che gli passava una cosa, però mandronia saltami addosso. E Andrea anche, ciao a tutti, anche da Sportoni, chiudo, vai Andrea. Ciao Marco, buona serata, io rimango qua in ascolto, ciao. Ehi Marco, fammi sapere per la scatola, dai, ciao, stammi bene. Avanti Natali. Io devo aspettare adesso qua. Mi devo misurare la glicemia e farmi la nizione. Prego, io ho già cenato. Ho mangiato un pezzo di pasta al forno, poi mi sono mangiato, pasta al forno, la frutta, e poi a fine mi sono fatto la torta di mele a pranzo. Casino, quando sono giù mangio come un boia, quando sono a casa molto meno. Mamma mia, a pranzo ho mangiato un bello, ho fatto al forno, agnello. Mamma mia, su, rimendi. E dopo ingrassi però. Il discorso è che sto bevendo poca acqua anche. faccio mi sono fatto una tanzata. Poi c'è d'estate, io mi ricordo quando stavo lavorando, stavo facendo prati sintetici, anche 5 litri di acqua, circa 5 litri. Ma se tu non hai idea, il lavoro, vabbè, un lavoro è un lavoro che devi stare sotto al sole, ma l'acqua ci scendeva veramente, è una bellezza qua. Sono stato contento la birra. Io me lo posso immaginare. Ero presentato al Papa. Ultima cosa. Vai. C'è qualcuno che può fare una prova ultra rapida in PMR? Vai. 446-081. Eia. Ci sono, Dai, ci si, sì, prova. Ci sei, dai, vai. E basta la radio, C'ho il volume qua c'è la manetta. Qua c'ho il volume alla manetta, adesso parla. E basta la radio. Comunque si è sentita la ragazza, che ti sente bene Marco. Oh, ma cosa c'è? Sono quelle dei cosi, dei... Va, ospedale, cos'è? Pronto soccorso. Serio. Ciao a tutti, buona serata, ciao. Ciao Marco. Vabbè, Andrea, che si dice? Adesso arriva Antonio, ma sta lì. Antonio Bombolo sta rientrando a casa. Ciao, ma che era? Marco arriva a fondo scala, però alla radio bassa. E anche qua, arriva a fondo scala, ma la radio è bassa, boh, chissà cosa stava usando. Andrea, ci sei. E Andrea ha detto che rimaneva in ascolto. Sì, ciao Natali, sì, sono sempre qua in zona. Adesso entra Natali, ma entra Antonio. Dovrebbe arrivare adesso a casa. Siamo sovrapposti Luca, sono sempre qua in zona. Ah, mi ascolti, sì. Sì, sempre benissimo, adesso con la boomerang sono migliorato molto e vi sento sempre benissimo. Fai un passaggio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu non ci credi ma eri più forte con la magnetica. Cioè sei, mi arrivi sul più del più 30, Ma siamo lì, dai. Ma sai con la magnetica che arrivavi leggermente più alto. Magnetica ce l'ha adesso, mio fratello Attissi arriva benissimo qua, ieri lo stavano sentendo in diversi, anche Giovanni al terzo petti l'ha sentito con quella magnetica. Hai visto, ha migliorato anche lui, Piano piano. La radio è un po' così quella di Andrea, vabbè, microfono normale Natali. Comunque se vi interessa tuo fratello stava prendendo io la boomerang grande. Ce l'ho, la nuova nuova, ce l'ho giù un altro QTH. Glielo dico, mi stasera l'ho incontrato poco fa. Quindi ti arrivo un po' peggio di radio, Natali. La radio era migliore prima. Sicuramente la devo regolare adesso l'antenna, vediamo nei prossimi giorni quando ho un po' di tempo per dedicarmici. Vabbè, piano piano, adesso ha messo la boomerang grande sopra il tetto, l'hai messo in terrazzo. No, in terrazzo, nel momento in terrazzo, infatti la devo ancora accordare bene, devo fare le prove aprendo e chiudendo lo stilo come gradida per vedere un po' se riesco a accordarla meglio e poi estendendo e riportando dentro anche quella specie di cursorino che c'è. Lo stilo lo devi mettere a 45 gradi. È a 45 gradi al momento, però qualcuno mi stava suggerendo di modificare anche l'angolazione da 120 a 140, oltre che agire sullo stilo. Insomma, devo vedere adesso un po' come riesco a ottimizzare, a ridurre le stazionarie e aumentare i watt in uscita. Sì, devi giocarti con lo stub, diciamo, l'antenna. Con radialino, ecco lì, lo mandi tutto dentro, piano piano, poco a poco lo tiri fuori, la molli, lo stringi e devi allontanarti. E così comunque dovresti essere, cioè dovresti farlo in due, se sono da solo ti viene male. Anche perché io l'ho portato fuori un metro e mezzo rispetto al balcone, quindi ogni volta devo smontare, riportare dentro, estendere, ripiazzare, infatti adesso devo trovare un altro modo. Deve essere vicino l'antenna, altrimenti è un casino. Non ce la fai a accordarla, te ne fa uscire un po' gli occhi, Infatti mi sono ordinato un accordatore giusto per ridurre le stazionarie, anche se non esco di potenza, almeno non mi brucio i finali. Infatti. Quanto ce li hai adesso le stazionarie? Un attimo. Adesso ce li ho a 1,4. Vabbè, non sono male, dai. E il finale chiamano i bruci così. I bruci dopo le 2, 2 e mezzo. Ecco, infatti non sta scaldando molto stasera, però cambiano molto, non riesco a capire perché cambiano le stazioni aria. Dipende sicuramente anche dall'atmosfera, dall'umidità. Che cosa ne so? Ma tu l'hai toccato lo stub? Sì, ci ho già messo mano perché ho già iniziato ad estenderlo. Infatti all'inizio il stazionario erano sopra i 2, però ancora non ho fatto tutte le prove estendendolo ancora per vedere se le porto a 1 e poi magari riportandolo dentro. Mi sono fermato quando sono scese, capite? Però non ho finito la calibrazione. Allora, ti sono abbassate tirando o buttandolo dentro? No, tirandolo fuori. L'ho iniziato, come hai detto tu, l'ho buttato tutto dentro e poi piano piano, mezzo centimetro per volta, finché non sono sceso da sopra 2 a 1,4. Però magari si può scendere ancora, eh. Allora, tu già fai, lo prendi, visto che è così, lo tiri un po', cosa ne so, 2 centimetri, così, circa, e chiudi e vedi un po'. Se vedi che scende, una volta che hai fatto, ti metti un bel pezzo di nastro isolato e te la blocchi bene, senti, va bene quel coso, se te lo vulcanizzi bene, altrimenti ti entra acqua lì, ed è un casino. Ma sì, anche questo è la cosa che volevo fare. Sì, col termo restringente lo volevo fare quello. Tu che cosa fai? Vulcanizzi direttamente? Ah, vulcanizzati, usa, però ci va un termo restringente, già va bene lo stesso. Sì, il termo restringente gliel'ho messo anche dove c'è la vittina e la bumera, dove c'è l'aggancio tra i 2 pezzi. Ah, io gli ho messo la isolante lì. No, ma già sta reggendo bene al momento. È che qua ci tocca il vento, maledizione. Infatti ho paura che quando fa vento o vento lo devo portare dentro. Antenna! No, sai cosa ho fatto io? Ho messo un pezzo di tubo. Praticamente poi ho messo un pezzo di lamierino in acciaio e lì ho agganciato il palo, ho fatto dei buchi lì e poi la staffa l'ho agganciata al filo da stendere. Se vuoi, vabbè, ti avrei mandato anche le foto, però dovresti dare il numero e ti mando le foto così vedi come ho fatto io. E poi gli ho messo 2 tiranti. Però vabbè, giù da 25 praticamente è distante dal muro, capito, molto distante. No, io è collegata solamente, diciamo così, nella parte bassa e quindi ho visto che la punta oscilla un po' quando c'è vento, perché non è bloccata. E col rischio anche che cadesse tutto giù, l'ho ancorata con una cima nautica all'interno, nel caso succeda qualcosa, almeno me la tiene penzoloni e non cade giù. Perché a che piano abiti? Abito al 7°. Vedi, tu se abiti al 7°, la metti sul tetto, non si può mettere sul tetto. No, mi viene male metterla sul tetto, poi vabbè, vediamo più avanti a seconda di come. Perché se la metti sul tetto, la metti al 7° pittino, da lì picchi, Cioè, figurati se metti una 5°. Sì. Vabbè, e beh, tu. Cazzo, conosci tu mai? E allora, dal bacio di Falcone. Falcone. Caffa, sono con l'antenna piccola. Vabbè, comunque piano piano. Oh, Andrea. Piano piano e si fanno le cose, dai. Poi come inizia la propaganda, già fai anche tu collegamenti, girando canali, li senti come se fossero qua. Sì, kappa. Antonio, ti sento piccolino, Antonino sembri stasera. Tuca. Eia. Ma cosa sei attaccato? Se arrivi un bel forte qua. No, sganciato, no. Mi ha attaccato sono così, guardami. Lascia vedere. Adesso sono attaccato. Cazzo mi ha segnato col portatile. Sì, non li vuoi fuori attaccato così. Lo lasciamo così, tanto va bene, dai. Lo uso magari in propaganda, dai. Cappa. Bene mi senti lì. Sì che ti ascolto bene. Sono con l'antenna piccola, insomma, adesso attacco il grande. Capito. Ehi, ti ascolto bene, a voglia. Cappa, con la forma che ti sente. Seconda antenna. E tu come mi ascolti da quelle parti via Mendola? No, ti sento bene. Non potente come al solito, ma radio ottima. Il segnale è lo stesso, buono. Fa un passaggio. 1, 2, 3, prova. Santiago 8, radio 4. Già va bene. Antenna piccolina col portatile a 4 watt. 4 un'azienda di lusso. La retrocasa si è atto. No, se l'antenna del tetto. Ma di masso però, A me sta arrivando bassissimo, E quando? A passaggio. 1, 2, 3, prova. Ehi, quasi no, fessi, ma la radio è bassa. Prova a vedere adesso, forse no. Ho già avviato attaccato. È uguale, Antu. Vabbè, la radio è tu così, Da, attacco la grande che è meglio, da. Ma esce bene di radio, vabbè, la radio con l'apparecchio. KK, aspetta. Allora, niente male. Adesso sì che cambia, La pompa? La pompa, Andrè. Sì, adesso sei aggressivo, adesso. La seconda antenna ci avevo attaccata. Col portatilino, però già funzionano mattensi. Sono tutti e due sul tetto, No, questa va bene. Non devo dire niente su questo segnale. Allora la fondo scala. Là, guarda, c'è chi su portatile, secondo me. Se poi sarà un va, 2-3 watt, è pure troppo. Ma già va bene, per cosa cosa? E andava a voglia. Ce n'è anche davanti. Ma c'è qualche portante? No, non mi sembra, ieri entrava una portante col bip. Io ieri ma uscito da solo altro. Zero. Nada. Ma più grandi, dove di ieri Antu? Da Giuseppe. Ma vai anche la domenica Giuseppe. No, oggi non ci sono andato oggi. Oggi sono andato solo il sabato. E di là sono pochi burumi. Fatti pure io mai su e su. Sono venerdì e se esco. Ma sono il sabato, sono venerdì, sto a casa, esco il sabato. Ma è d'estate. D'estate sì. Fare una passeggiata, ho capito. Come ne andare il sabato e per carità. Troppi soldi, un casino. Non fa. Non fa no, non è che sempre invitano. E da costante non vi sei andato? Negativo. Venerdì dico. Negativo. L'ho passato così pomeriggio, non mi sono andato no. Troppi soldi, cazzo, un casino. Troppi di no, non va. No, va bene. Avanti Andrea. Tanto Andrea non esce, vero Andrea? Sì, esco poco, esco poco. Natalino, ci sei ancora? No, probabilmente è andato a caricare. Come nuda esci? Io? No, a me non è che interessi molto uscire. Adesso con la famiglia, eccetera. Prima uscivo un po' di più, ma adesso in realtà ne approfitto per fare altre cose che riesco a fare di giorno. Vabbè. E io sto però con pochi batti che esco lo stesso. E la voglia. Guarda, una piccolina. Già funziona, già. Alla grande. Ciao. L'altro giorno ho acceso quell'altro apparecchio, cazzo, era una di Femmo. Ho acceso l'alfaglietti Zeus. Passo se Marco mi dà la scatola del 2009. Ma lo conservo se mi uso il Typhoon. Fate qua. No, ma è sul Typhoon c'hai? No. Il 2009. Comunque già ne parliamo quando ci vediamo, ok? Di una cosa. Ciao, ho già compreso. Che va oggi? Io la mattina c'è, negana già sono da presto in deposito, ok? Domani cosa devo fare? Vabbè, al limite già entro la ghizzo io. Mollo i cani, capito? Con le bestiole piccoline. Con le bestiole piccoline? E lei, i cani. Ahia. Ha detto che faccia simpatica. Sono bravi che si gane, ma bravi mi rubano uno. Realmente sono bravi che sono macchi. Però sono tenuto a fare la guardia a lui, mi si sente un estraneo. Beh, il cane deve essere per quello. Sono belli i cani, sono belli Anto, però è un casino. È un casino, ci vogliono tanti soldini, poi quando si ammala voi. Allora come tagliare le zocche, cazzo? Guarda lì, quattro bastigli, cazzo, un patrimonio hai preso, quasi 30 euro. E tu conta, io sono a marzo, devo comprarle di nuovo il collare Serestro, non so che cavolo già, Serestro, boh, vabbè, quello che dura 7 mesi, e costa 40 euro. Vado, zocche. E tu non hai cane? Anch'io. Andrea, ne hai cane tu? No, non ne ho di cani, non ne ho, anche perché in appartamento è difficile tenerli e poi sono un impegno. Se ce l'hai devi trattare bene, da piccolo ce l'avevo ma ero in paese. E quindi lì erano liberi, potevano uscire. Qua invece è una cosa seria avere un animale, lo devi trattare bene. Fai bene tanto. Sono offese, è bancare è bello, però se non ci vogliono tanti sacrifici, sono di là. Sì, soldi, tempo e poi, come dire, non sono degli oggetti e quindi devi dedicare attenzioni, anche come dei bambini. Già non vedo io, ma sto scherzando. Devi dedicare attenzione, sì, perché il cane è uno seguito. E K. Infatti anche i miei figli lo volevano, uno piccolino, ma in realtà non fa, perché non è un giocattolo. Non è... Sto scherzando. No, ma fate bene, fate liberi, perché c'è da voi a buttarlo gli osso, a fare bisogni, ecco, no. Io non ce la farei perché ho orari strani. No, io ne avevo uno da piccolo, me lo ricordo ancora adesso, ed è morto e da allora non mi sono più ripreso, non sto scherzando, ero affezionato come se fosse un fratello, ma ero piccolo, infatti i miei genitori mi raccontano che ero sempre con lui, e poi mio padre li ha sempre avuti, ma io non l'ho più voluto avere per la paura di perderlo, capito? Vabbè, pure un cristiano si perde. Adesso vediamo più avanti, magari quando i bambini sono grandi, che siamo autonomi e che abbiamo più tempo. Roba da pensione. Ma io non penso che mi animali mai più, a meno che non ho la casa grande, la campagna, allora è diverso. No, niente. Perché pure io avevo degli animali in casa, mi sono morti e dopo aver fatto tante cure, no. Niente, no, non andava. Mio padre, l'ultimo cane che ha avuto, gli si è affezionato così tanto, alla fine ha avuto la gastroenterite o che cosa era, gli faceva le febbre tutti i giorni, poi scendevo anch'io in campagna, è un lugresiano, e gli è dispiaciuto così tanto che neanche lui ha voluto più sapere. Infatti quando ti affezioni c'è poco da fare, diventano di famiglia, dai. Già lo so, ma tu non sei sassareso? No, io mi sono trasferito qua per studiare quando avevo 15 anni, sono di un paesino a una quarantina di chilometri vicino a Tiesi. Però vivo sempre qui, la mia famiglia si è trasferita, stiamo parlando di 30-35 anni fa, e poi babbo si è comprato anche la campagna qui, e quindi anche lui qualche animale l'ha avuto. Ah, ho capito, ma dov'è? Il paese era diverso, in paese gli animali ce li avevi nel cortile, uscivano tranquillamente, erano tempi diversi, non c'era microchip, erano negli anni 70-80, no? Anche lì, come dire, ce li avevi sempre appresso quando uscivi a giocare da piccolo. Cappa, chi è che mi stava chiamando? C'era qualcuno che mi stava chiamando, avanti. Lui, ma tu l'hai sentito? Sì, stavo chiamando. Avanti che chiamava. Sto bianco un attimo, arrivo. Eia, avanti. A voi che ti ascolto, vieni avanti. E dove sei? Io già ti ascolto, Natalino. A voi, adesso ti sta chiamando Natalino. Sì, ma non lo occupi per niente, come mai? E ha detto che non ti sente, Natalino. Già sei otto da me, capo, immaginiamoci. E io come ti arrivo bene con l'antenna del frigorifero. Ma chi, a me anzi? No, Natalino sto parlando, con Natalino. Cappa. E come mai non c'è l'antenna grande, Natalì? Immaginiamoci se non mi senti a me. A buia. Sì. Era con l'antenna dentro casa, era, capito? Cappa, anche l'altro giorno ho fatto delle prove, ma non riuscivo a sentirlo, no? Non lo sento. Ah, io già lo sento, e vabbè, è molto vicino a me, Natalino. Cappa. Cappa, comunque rende forte con la boomerang. Se la metti un po' più cosa, bomber? Sì, la devo ancora accordare, anzi, l'ho fatto a metà, la devo sistemare ancora meglio. Quella quando c'è il stazionario? Le 4, 10 minuti fa, c'aveva, adesso lo stesso. Però la devo accordare ancora meglio. A 1.1 deve stare l'antenna. KK. 1.4 già si può parlare, ma non è l'ideale. Natalino ancora con l'antenna casalinga? Natali ancora con l'antenna casalinga? Cappa, l'antenna grande, no? Già andai, tu bene mi senti? Ma cosa non lo senti? Non mi viene adesso, provo di non veloce. Andrea, non lo senti, Natali? Lui ti sta chiamando. No, sono rientrato. Chi è quello basso basso? Natalino, io lo sento, Natali. Ti ascolto, a voi, ti ascolto. Segnale 9, quasi. Ora vedo un po', 1, 2, 3, prova. Aspetta, guarda un po', aspetta. Guarda se aumenta. Più alto è adesso, guarda un po'. Già sale, dai. Proviamo a vedere a mettere la manetta. Com'è? 1, 2, 3, prova ancora a vedere. Ho alzato la potenza. Vabbè, non ce li ho 100 watt con questo. Sono al massimo adesso. Ne avrò la metà. Questo è tanto da 50 watt, mi. Perché l'ingresso gli sto dando 30. Invece in banda ne da quasi 90, li ho misurati col wattmetro, capito? 50 watt da. Cappa, ma io stavo uscendo molto di meno. Ah, ce l'hai il 747. Allora io mi devo comprare l'RM Italy. Adesso vediamo e ci mettiamo d'accordo per questo. Quello RM Italy, Luca, cosa? Da quant'è? Cappa, l'RM Italy da quant'è? 3. Aha! Sì, 300. Cappa, quello già spinge già. Cazzo si spinge. Ma si marcia! Già va, già va. Mi si è messo questa cosa qua così, ecco. Vabbè, adesso vediamo. Solo che praticamente costa 200, sono 220-230 spedito. Solo che ti comprano anche lo spinotto dall'alimentazione e costa 15 euro. Vabbè, non è un problema. Io già stavo pensando più in là di pigliarmi una cosa del genere. Però vabbè, vediamo più in là, ora come ora no, non fa. Poi ce l'avevo in prova, come se funziona bene, adesso lo devo pagare, no? Ma stai scherzando, che va benissimo. Quanto l'ho pagato lo offendo, di meno non lo do. Ma guarda che funziona benissimo, va benissimo. Secondo me è per il prezzo del mercato anche poco quanto l'hai pagato. Va bene, il prezzo è quello. Uno può costa 80, 90, boh. No, io guarda, quello che faccio me lo tengo, non mi do dubbi a nessuno. No, va bene, certo. E vabbè, questo va bene per Natalino in macchina, se lo nasconde, poi quando è male fuori da qualche parte, aggancia e si fa sentire. Ma ce la faccio, a cazzo quanto costa nel dettaggio, ma l'hai visto? Un botto, un B150, cos'è un botto? Gigante petrolifero russo Rosneft, dopo circa 30 anni di partnership lo ha fatto sapere. Che è avanti? Io sono. Fatto l'invasione. Ehi, inglese, internazionali. Cazzo, mi sta funzionando male il microfono, boh. Che si dovrà distruggere. Io già ti sento bene. Sto guardando, ma ha prezzi allucinanti con gli amplificatori, mizzica, trappa. Avanti Andrea. No, mi stavo ascoltando, ben tornato Natalino, ti sentivo piccolo piccolo in mezzo al QRM senza l'autosquelch, però poco a poco, adesso vabbè, ti sento meglio. Capo, vabbè, adesso è un'altra storia. Cazzo, l'elicottero caduto fino a Mornasco, Como. Stava pilotando un uomo di 78 anni. Bebe. Molto è. Bene, mi sa di sì. Bisogna stare attenti a queste cose. Ma stavo guardando lui, ma prezzi allucinanti mi. Questi amplificatori, un dettaggio di cavolo, se lo fate di pagare un bebe. Lo so. Il dettaggino non è che sia il top, no? E a Natalia. Mentre dall'Algeria. Mi sta funzionando male il microfono. Ma ci sentiamo bene. Già tornato su $100 adesso mi senti bene perché già sta andando. Perché poco fa quando schiacciavo non metteva la portante, boh. Quello non è bello. Ragazzi, bianco per me. Ok. Ciao. Ma il QRM ne avete, cioè. Vabbè, io poco a poco stasera. Capo, ieri ero a 15 di gambo. È passato, ne è diventato il 30%. Da domani in via... E cosa vai, Natalia? Cosa c'hai? Commissariale. E questo microfono che non sta andando bene. Ma cosa è il connettore, cos'è? Una V508. Vabbè, al di là della marca, cosa sarà? Il connettore, qualcosa? Sì, c'ha... Il connettore è come quello del telefono e poi c'ha lo spinotto normale per il baracchino. Capo, ho detto la difetto, però ve lo fa, non c'è capito qualcosa. Dal tasso lo faceva. Sicuro sì. Ehi, adesso sta funzionando. Che vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Un'altra ve ne una. Lui Zanca. Guarda le buone più apparecchie in macchina. Cosa Anto? Non le metti più apparecchie in macchina, Natale. Ce l'ho. Ho messo a posto anche la base magnetica. Già ce l'ho l'apparecchio per la macchina, questo qui piccolino. Solo che è un macello. Perché non c'ho il bullone della staffa, quelli laterali. Ma tu non ce l'avevi già la basettina? Come? Io mi ricordo che ce l'avevi già la base, capito? E la base ce l'ho, mi mancano i bulloni. Alla settimana della moda per avvitare la base. Ah, ho capito, la farfallina. E quelli lì mi manca. Ah, quello lo trovo in casa, perché non c'è più la casetta di babbo. Sono da io, da 10 mi pare che sia. E quelli che ho io sono più fini, perché la staffa non è quella del baracchino, è del ricevitore, vanno bene, ed è va bene, giusta giusta. Mi mancano solo i bulloncini. Ma si trovano, Natale. E bisogna andare al negozio ferramenta e buscare due bulloncini piccoli. che avvitano, molto ci vuole. Guarda, se vuoi bulloncini in acciaio, se inviamo a Sigli a Milano, perché lui c'ha qualche roba per la nautica, capito? Dove? Via Marsiglia. In via Marsiglia. Via. C'è anche parcheggio, ma solamente che c'è, quindi è una pizzeria. E quello c'è il bullone in acciaio, perché è roba per la nautica, capito? Ho capito. Poi mi devo buscare i tasselli domani, perché le staffe me le ho già comprate. Tasselli non avvia chi su... chi su biondanze di cose, su veramente biondanze di usato, non abbia, ce li aveva troppo grandi. Già non so, ma io prodotto la Bricoman, è di Giappilani. E io passo da Bricoman. Giappilani è di, o se no andavi lì già a Ciappavi, non ti dai vinto io, ma un po' di tutto. E infatti con la scusa dei bulloncini mi porto il baracchino appresso e così vediamo un po'. Ah, ho capito. E io ci sono in deposito già, già sono collegato, non ti preoccupare. E capo, tanto l'antenna l'ho già preparata. Eia, l'ho fissata e boh. No, è già pronta sopra la base magnetica, ma fortunato, riattaccarla è da funziona. Eia, capo, ho visto il ringo che ha già riparata, un buon muore, e ci pensi. E così ci sentiamo domani al limite, dalla macchina. Cappa, dai, se sono un deposito volentieri. Cara, cara. Il primo che c'è a travaglio, però al limite se è già. A proposito, la bombola da 10 quanto costa, Antu? 50 anni. Ma portata? Adesso ce l'ho. Però quando mi serve, quanto costa adesso la bombola da 10? Alla scena lirica. Ma portata viene 27 euro. E cappa. Rivoluzionari. Anche quello che me l'ha forzata, quello che me l'ha portata sempre, 27, è aumentata Marasuri. È uguale. È uguale a quanto la state vendendo voi, però è aumentata perché io la pagavo un po' di meno. Non lo so, chi sono appigliato tutti i clienti di coso, di Macciocco, perché io la pigliavo da Macciocco che era qua di fronte. Ah sì, coso, la RG da Ruggio stai facendo. E voi tu ti usa. Cappa, ma che piglia la mamma che dura. E infatti. Cappa. Vabbè dai, domani a Manzano, se sono in deposito già ti chiamo, ok. E intanto mi sai cos'è? Candichiccio di latte non funziona più. E va bene, c'è il difetto. E il difetto il tasso c'ha. Quando la vuoi mi chiami e ti arrivo. E farà vai all'aggio, chissà di riserva ma vi ho bigliato, quindi quando mi finisce c'ho quella di riserva, no? Quando attacco quella riserva ti chiamo e me la faccio portare. Natale, non ti preoccupare, noi già siamo lì a disposizione, però siamo un po' travaglianti, è meglio che ci sia lavoro. È un casino. E infatti. Cappa. Luca! Andiamo. E allora? Mi sto leggendo un attimo su Facebook, sono qua. Cazzo, c'è un po' freddo, lo sai. Ah? C'è un freddo. No, io no. Sto benissimo. A casa di Maria c'avevo freddo. Non ha preso zuppa? Sì, era uno. Ma consuma un bel cazzo. Ci mangia un po' di quella si mangia. Ma guarda che ultimamente no. Non c'è più nulla di baratto. Lascia perdere. È stata una disgrazia a me. Sassari, ragazza di 30 anni, originaria di Silius, ma residente a Sassari, muore precipitato da un'altezza di 13 metri da Pedanietta, dove un rave in un locale notturno. Il cadavere di Carla Dallai è stato trovato nel piazzale sottostante poco dopo le 13 da alcuni conoscenti. Sul posto dei carabinieri di Sassari sono in corso indagini per capire come sia accaduta la tragedia. Per carità, allora te la tali. E stavo provando a vedere, e il tasto è mezzo difettoso. Ora c'è un bando. Lì già mi costa. E quindi quando è che ti buona all'opera? E mi servono solo i tasselli mi per piazzare le staffe. Prima mi piazzo le staffe, perché ci vogliono due tasselli per ogni staffa. So vedi una ciucci gli staffi. Per tenere quella già va bene. Posso la mia ringo, quando un di la buona i reggi, perché è molto leggera, non ha problemi. E infatti. È una penna molto prestante, capito la tali? Tu dove la metti lì va bene. Sì, infatti, perché queste staffe sono belle di lusso. Ce ne vogliono due tasselli per ogni staffa. Ma esiste quando pongo lo tubo da 4 metri, un tanto ne sai quasi. E anche io ne devo aggiungere uno da 4 metri, ce l'ho già pronto nel portone. Ma te lo fa fare il lavoro, sì. E se non lo fa fare da fuori lo faccio. Mi metto la scala, taglio il gannavo, non di la faccio vedere, ne apro su avanti, non sai più. E allora fai così. Ma non sei guascio. Guascio su due. Quando la sto piazzando, se poco esce dalla finestra a fare scandali, di ricudo mi casusa, gas manco drena, accusa, va. Basta ignorarlo, tu la piazza e basta, vado a dirla, oh. Basta, la finisci sì o no, basta dirle. La camidraia è muto. Ehi, ma se dovessi uscire a rompere le scatole, vedrai cosa gli faccio io. Ciappa. Che non si gaglia. Un macco di cadena, ragazzi, ma macco è isso. Io continuo a fare. La grappiglia è dopo. Ehi, infatti. E così l'aveva già fatto. Ciappa, poi se può venire male in alto allora c'è cosa. Vedi con una abbassata di Dumba a capo, vedi che rimbassano macchine. Ehi, rimbassa pure a Eddie. Però se è buono, non ti alza le mani allora, capi lì. Io adesso mi faccio prestare la scala, taglio lo spago che ha messo lui, tiro su il tubo e me lo faccio scendere. Me lo tiro dalla pippa, non dalla pipetta, e ne apro su varà. E fai così, piano piano. Ma bisogna essere in due meno, tali, non ti avventura da solo, mi sono trigaginato. Piano piano, telescopicamente l'antenna, no? Così ne la posso fare la lasura, puro. E Natali, però, non ti muni da solo, ma ti aggiudato. Se no vengo e ti aggiudo, perché da solo è pericoloso quel lavoro. Ehi, già lo so, ma lo faccio da solo, non so gumacuno. Ma se parlo di domenica che su Gulibaro ne faremo. Infatti. Non ti avventurare a cosa, piano piano. E infatti, prima mi piazzo le staffe pronte all'uso. E trubacchettaggio. Ce la faccio salire telescopicamente poi. Capito? Perché il palo è telescopico. Sì, già andava. Vediamo un po' come va questa gimmata, va? Già va bene, perché vuole piazzata correttamente. Vuole piazzata, la mia è già segnata, so già dove vanno i tubi e tutto. L'ho già segnato, ho preso le misure io a ogni tubo. Non è problema. Io l'altro dire non mi intendi macchina sta lì. Non riesci a cucinare l'antenna. Poi ho scoperto che avevo fare 4,80 m, quella per Ringo, siccome già è diversa da questa, cioè le fascette. E si è fatta a 4,80 m, come sta da cuccia l'antenna, ti varia un raggio. Vedi, le cose se non si sanno è un casino, è così la Game Master, se non la sai piattare ti si rompe. No, lo so già. Vabbè, là, io mi addormento, buonanotte perché c'ho un po' di sonno. Ciao, ciao a tutti, anche a Luca, ciao, ciao. Ciao Antu, ciao, alle prossime. Ciao Andrea, che anche io adesso mi devo fare una cosa qua, e ciao a Luca, quello ti per me. Sì, ciao, buonanotte, Antonio, Andrea e Natalino, a domani, ciao. Ciao, ciao.